Forgive, forgive. I vomit for you, Jesu. Shit, forgive. Down now from your cross. Down now from your papal heights. From that churlish suicide. Petulant child. Down from those pious heights, royal flag bearer, goat, Billy. I vomit for you. Forgive. Shit, he forgives. He hangs in crucified delight, nailed to the extent of his vision, his cross, his manhood, violence, guilt, sin. He would nail my body upon his cross, suicide visionary, death reveler, rake, rapist, life fucker, Jesu, earth mover, Christus, grave digger. You dug the pits of Auschwitz. The soil of Treblinka is your guilt, your sin. Master, master of gore, enigma. You carry the standard of our oppression. The Nola is your gaiety. The bodies of Hiroshima are your delight. The nails are the only trinity. Hold them in your corpse of gracelessness. The image I have. Allora, ricordiamo che oggi ci sarà il corteo contro l'inceneritore di Albano, concentramento ore 15 Piazza Mazzini, e oggi si sono mosse anche altre cose qui vicino a noi, in particolare a Frosinone e a Colfelice. C'è stato un blocco dello scarico dei compattatori. Adesso leggeremo alcuni articoli. Ci sono state delle dichiarazioni del ministro Clini, c'è stata una nuova lettera scritta da Cerroni indirizzata a Zingaretti, il presidente della regione Lazio. E quindi a breve vi daremo, ecco, questi aggiornamenti, entrando un po' più nello specifico, e ci sentiamo un attimo una traccia dei Crass. Let's go. rush of life. Never to lurch like my threats. Or I live where Dracula's on his stage. It's a fault. Well, thank them for not feeling fun. Thank them for not feeling fun. Thank them for not feeling fun. Inizia Ops Connecting Fights su Radio Default. E ma quando ce l'ho, ce l'ho, le rimemore non mi mancano, mancano. Però ci non mi arrenderò, non mi arrenderò. Le armi non le consegno, no, non consegno. Questa è una lotta senza resa, senza resa. Venite a prenderci se mai, se siamo pronti alla difesa. Non ci sconfiggerete mai, mai. Mobilitati da tutta Europa, mi viene la pelle d'oca, vivo la vita loca. C'ho la voce roca, a forza di rappare uso il mio arsenale. Mentre la repressione gioca, le sue facce da maiale. Mobilitati sempre e chi va a dormire. C'ho la barba lunga, gli occhi piste 100 mire. Chi colpisce uno, colpisce tutti quanti. Nessuna lotta è decisiva, tutte importanti. Ma tu vuoi il nostro posto e non venirmi addosso. Io vedo rosso e lo difendo come posso. Tu vuoi il nostro posto, e cosa ci vuoi fare? Da tutte le destinazioni, è la tua che è criminale. E tra tutti gli stranieri chi è il più straniero? Bilanciero, pistolero, lo sceriffo nero. Meglio imparare subito, dare i segnali in pubblico. Essere chiari perché questo non lo dubito. Bottiglie e malata ce l'ho, ce l'ho. Scerive muore non mi mancano, mancano. Però ci non mi arrenderò, non mi arrenderò. Le armi non le consegno, no, non consegno. Questa è una lotta senza resa, senza resa. Venite a prenderci se mai, se siamo pronti alla difesa. Non ci sconfiggerete mai, mai. Mezza Italia sta così. Difende il territorio, dal turbo gas gli F-16 o un nuovo traforo. Dalla servitù nucleare, militare, dal voodoo commerciale. Ehi, cosa dobbiamo fare? E noi siamo qui, per il nostro territorio. Ognuno è di passaggio, ospite provvisorio. Il saccheggio degli spazi, è la vera violenza. C'è un'apertura in anzi, è la loro monnezza. Ma c'è anche resistenza e noi la facciamo. State attenti perché ci riproduciamo. E siamo in tanti e differenti. Ma tu vuoi il nostro posto, non mogli e mostri i denti. Puoi sgomberarci, ci fa un clima ostile. Ma ci sono molte altre sacche a noi vicine. E sono decisive, ognuno ha il proprio stile. Voi come pensate di colpire? Noi andiamo crescendo, andiamo sempre meglio. Questo mondo di mille mondi è sveglio. Noi andiamo crescendo e questo non ti piace. Ma vedrai che ci daranno il Nobel per la pace. Altro che Al Gore, quel piaccio e niente, non è una chiara percezione del presente. Tutti a Stoccolma a ritirare il premio. Dietro ogni no si nasconde un genio. Bottiglie e malata ce l'ho, ce l'ho. Scerive muore non mi mancano, mancano. Però ci non mi arrenderò, non mi arrenderò. Le armi non le consegno, no, non consegno. Questa è una lotta senza resa, senza resa. Venite a prenderci se mai, se siamo pronti alla difesa. Non ci sconfiggerete mai, mai, mai. Oh, oh, oh, fire. More, more, more fire. More, more, more fire. More, more, more fire. Bottiglie e malata ce l'ho, ce l'ho. Scerive nuove non mi mancano, mancano. Però ci non mi arrenderò, non mi arrenderò. Le armi non le consegno. Buonasera a tutti e a tutti. Radio Default va in ora in onda. Oops, Connecting Fights. Ricordiamo per chi ci ascolta il nostro sito, anche se in teoria dovreste già saperlo, www.radiodefault.it. La radio che non campa d'aria, quindi veniteci sempre a trovare, pigliatevi una birra, sostenete questo progetto di comunicazione libera. E vi lasciamo anche i nostri contatti Skype, che è radio.default, oppure trovateci su Facebook per interventi, domande, Radio Default, o anche Twitter, che è sempre Radio Default, per la gioia della fantasia. E, beh, oggi giornata densa di mobilitazioni in tutta in Italia, in Campania. Infatti proprio oggi è stata chiamata una giornata di mobilitazione interregionale sulla questione dei rifiuti. Abbiamo visto infatti gli ultimi sviluppi del decreto Clini, ma anche la crisi che ormai da anni va avanti nel territorio campano, che non è mai stata risolta malgrado si siano susseguiti sempre appelli da Berlusconi prima, da De Magistris poi, che inneggiavano finalmente alla fine di questa situazione emergenziale. Di fatto la questione dei rifiuti attualissima rimane sempre attuale, in quanto mancano alternative serie a ciò che è discarica e incenerimento. O meglio, le alternative esistono. I cittadini, le cittadine e i cittadini in tutta Italia da anni ormai, anche su questo territorio, propongono le loro alternative e gridano la loro opposizione a dei progetti allucinanti e che vanno a incidere negativamente sia sulla salute, ma incidono positivamente soltanto sulle tasche di chi gestisce discariche o costruisce inceneritori con i soldi pubblici. Quindi giornata di mobilitazione che vede appunto cortei sia in Campania ma soprattutto anche nel Lazio. Abbiamo infatti oggi alle 3 una duplice mobilitazione, una a Malagrotta e l'altra alle 3 a Piazza Mazzini Albano contro la costruzione dell'inceneritore che ormai è ormai all'ordine del giorno senza ombra di dubbio. Difatti il TAR ci ha nuovamente dato torto, ha detto in sostanza che non è un problema per la salute la costruzione dell'inceneritore, né è soltanto la sua accensione. Quindi è ovvio che una volta che lo Stato ha speso 400 milioni di euro per costruire questo mostro che già da solo incide negativamente, visto che viene costruito in una zona già martoriata dove esiste una discarica praticamente da 40 anni, e quindi oggi noi invitiamo tutte e tutti ad andare in piazza a dire no a questo progetto. Ma non sono solo questi due cortei, cioè Malagrotta e Albano, i fronti caldi della mobilitazione. Difatti, a causa della ormai chiusura di Malagrotta e la mancanza di un sito alternativo, la monnezza romana sta venendo sversata anche nei comuni del circondario. Ce la sversano qua, ma ce la sversano anche nel Frosinate. E proprio dal Frosinate andiamo a leggere una notizia che prendiamo dal quotidiano 5 giorni, che ha visto appunto, che parla appunto delle mobilitazioni che sono avvenute proprio ieri. Emergenza rifiuti, barricate a Frosinone. Proteste all'impianto di Colfelice contro l'arrivo dei camion da Roma. Interviene la polizia. I primi camion di immondizia sono arrivati da Roma a Frosinone questa mattina alle 8 e ad attenderli davanti ai cancelli della SAF di Colfelice c'erano alcune centinaia di persone, tra cui sindaci del territorio e comitati di cittadini. Nell'impianto Ciociaro il decreto ministeriale firmato da Clini e dal commissario all'emergenza rifiuti di Roma prevede lo smaltimento quotidiano di 400 tonnellate di rifiuti provenienti dalla capitale. I tre grossi camion sono stati fermati. I manifestanti, con cartelli e striscioni, hanno impedito l'accesso nell'impianto. Diversi mezzi pesanti rimbalzati, tra cui anche qualcuno proveniente dai comuni Ciociari e del Casertano. La protesta è stata presidiata da un cordone della polizia, sul posto anche vigili del fuoco e volontari della protezione civile, che non capiamo a che cosa possano servire. Noi da qui non ci spostiamo, gridavano in coro i cittadini. Ci opporremo oggi e anche domani al transito dei camion, spiegano i manifestanti. Le forze dell'ordine ci dovranno spostare di peso. Una volta varcati i cancelli, la SAF sarebbe obbligata a ricevere e trattare i rifiuti, circa 46 tonnellate, contenuti nel camion. L'orientamento del presidente della società, Cesare Fardelli, sarebbe quello di permettere l'ingresso dei due mezzi, lavorarne il contenuto e vedere se l'AMA rispetterà i contenuti dell'ordinanza, che le impongono il pagamento della tariffa e il ritiro degli scarti e del trattato. In caso contrario, ha spiegato Fardelli, l'ordinanza sarà da considerarsi decaduta. Dopo un vertice tra il presidente della SAF e i sindaci sociari presenti, si è stabilito la convocazione di una manifestazione di protesta per lunedì mattina alle 8, sempre davanti all'ingresso dell'impianto, con a seguire un'assemblea straordinaria dei 91 sindaci del Frusinate, proprietari, tra virgolette, della società Ambiente Frosinone, prevista originariamente per la fine della prossima settimana. Alla fine ci ha pensato la polizia a mettere d'accordo tutti, sgombrando il presidio non autorizzato, che nel pomeriggio si era ridotto a una decina di manifestanti. Sul fronte istituzionale rimane però la tensione. La polizia ha fatto il suo dovere, ma è vergognosa l'assenza delle istituzioni. Il confronto dovrebbe essere con loro, con la Regione Lazio, con i nostri eletti a Montecitorio, in Senato e al Parlamento Europeo, non con le forze dell'ordine, ha detto Antonio Salvati, portavoce dell'Assemblea dei Sindaci della provincia di Frosinone, all'agenzia Dire dopo lo sgombero. E il successivo graduale scioglimento del presidio davanti all'impianto di TMB della SAF. Ma non finisce qui, perché la nostra battaglia rimane forte e decisa. L'appuntamento è a lunedì mattina con la grande manifestazione pubblica per ribadire ancora una volta il nostro no ai rifiuti di Roma. Anche perché l'allarme di Salvati, visto che la capacità accertata del TMB di Colfelice è di 695 tonnellate al giorno e già ne vengono trattate 500 della provincia di Frosinone. Portare qui anche le oltre 400 tonnellate giornaliere previste da Roma produrrebbe un disavanzo enorme, il che significherebbe portare la ciociaria all'emergenza rifiuti. Chi si oppone è contro la legge ed è oggettivamente solidale con tutti quelli che negli ultimi 40 anni hanno impedito che a Roma si applicassero leggi nazionali. Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, commenta così nelle parole riportate da teleuniverso.it. La protesta che ha comportato il blocco dei camion... La protesta che ha comportato il blocco dei camion dell'AMA provenienti da Roma all'ingresso dell'impianto di Colfelice. C'è un decreto del ministro e ci sono tutte le garanzie e l'impegno a superare il problema dei rifiuti tal quale, ha commentato Gianni Alemanno. Quindi sembra veramente un'impuntatura che si può superare, salvo tutte le garanzie del caso. Se possiamo dare a questi sindaci garanzie e impegni, siamo assolutamente disponibili, fermo restando che la Regione Lazio in primis e il Ministro per l'Ambiente devono dare garanzie a tutti gli enti locali. Di tutt'altro avviso i suoi colleghi ciociari. Siamo determinati ad andare avanti e a non consentire che i rifiuti di Roma vengano portati in ciociaria. Dobbiamo difendere la salute, l'ambiente e la dignità del nostro territorio. Non vogliamo soldi da Roma. Così il sindaco di San Giovanni in carico, Antonio Salvati. Determinato anche il sindaco di Rocca d'Arce, Rocco Pantanella, metteremo in campo altre iniziative a cominciare da oggi. Andremo avanti nella nostra battaglia di civiltà, tutela, salute e cultura nel pieno rispetto della legge, opponendoci nettamente a questa imposizione da parte di Roma. E qua insomma vediamo che abbiamo sicuramente una popolazione che sta a... L'articolo era di ieri, venerdì 5 aprile, quindi abbiamo visto come una popolazione e anche con il seguito istituzionale è riuscita, si è posta al problema di un blocco della discarica e si pone su una ferma opposizione a questo sversamento di rifiuti che ricordiamo è folle. Difatti il mantenimento delle discariche è già una grande infrazione alle leggi europee, visto che ogni due per tre abbiamo i nostri governanti ci impongono leggi capestro che rimuovono i nostri diritti o che magari ci tagliano sanità e welfare con la scusa di ce lo chiede l'Europa. L'Europa ci chiede anche da parecchi anni di chiudere le discariche, ma la grotta è il caso più esplicativo, e ad ogni giorno che le discariche non vengono chiuse si parla di grosse multe salate che ovviamente continuiamo a pagare sempre noi. E quindi ben venga questa grande opposizione che sta riguardando il Frosinate, che vediamo non parlano ormai di ricorsi o di altro, stanno parlando di una netta opposizione anche con la presenza dei sindaci davanti ai cancelli della discarica, che sono stati addirittura sgomberati, per fortuna in maniera indolore, perché ovviamente non è che nessuno vuole mai andarsi a scontrare con nessuno. Però insomma il dato è questo, serve forse anche qua un grosso momento di mobilitazione che ci porti a dire no, questi camion che stanno entrando e che continuano a entrare tutti i giorni forse non devono più entrare. away with their bodies. There's no purity in that vein. Only blood, death, bribery. It's all the fucking thing. When you've got the power, don't just stand there. Take submission of disgrace and fear. Fight war, not war. E torniamo con Ops Connecting Fights. E abbiamo letto quello che è successo ieri a Colfelice, un blocco dei compattatori che i cittadini, i comitati e insieme ai sindaci hanno fatto fuori alla discarica. Adesso vediamo, leggiamo un altro articolo sempre di ieri che riguarda più precisamente Malagrotta. Malagrotta, la Valle dei Veleni. Rilevata una correlazione tra mortalità e livelli di esposizione all'idrogeno solforato. Il dossier di codici sulla mega discarica. Quali responsabilità si celano dietro le morti di Valle Galeria? È il momento di rompere il muro del silenzio. Il codici chiede al nuovo Consiglio regionale una commissione d'inchiesta per accertare le responsabilità delle morti di Valle Galeria. Sono ancora molte le questioni da chiarire circa la pericolosità dell'area e le cause delle morti e delle malattie dei residenti. I dati epidemiologici presentati dall'associazione parlano chiaro e fanno comprendere quali siano i rischi per la popolazione. Esiste un'associazione tra mortalità e livelli di esposizione a H2S, idrogeno solforato, si legge nel rapporto di codici. Si tratta di un gas incolore dall'odore caratteristico di uova marce, in questo caso selezionato come tracciante della discarica. L'analisi evidenzia un aumento della frequenza di casi di mortalità per tumore della laringe, della vescica all'aumentare dell'esposizione all'H2S, mentre per quanto riguarda i ricoveri, l'analisi rileva una correlazione tra l'H2S e malattie dell'apparato circolatorio nelle donne. Negli ultimi anni, continua la nota, nella zona circostante Ponte Galeria sono aumentate negli uomini le patologie dell'apparato respiratorio. Per le patologie tumorali si registra per le donne un aumento di tumore della mammella. Tra gli uomini si è riscontrato un aumento di ricoveri per patologie alla tiroide. Secondo la sintesi degli ultimi risultati del monitoraggio effettuato dall'ARPA Lazio sulle acque superficiali e sotterranee, è emerso uno stato di contaminazione diffuso delle acque. In particolare, si legge ancora nel documento, è risultata la presenza, con valori superiori ai limiti di legge, delle seguenti sostanze: solfati, ferro, manganese, arsenico, cromo totale, nickel, alluminio, piombo benzene, PX-ilene, cloruro di vinile, diclorobenzene, tetracloroetilene e infine il burtibenzenesolfinamide, sostanza indicata come possibile marker di contaminazione da discarica rifiuti RSU. 2. Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio del 2012. Troppe persone si sono ammalate, troppe sono morte. È arrivato il momento di squarciare il velo di omertà che si è formato intorno alla vicenda. Se ci sono delle omissioni, delle mancanze da parte di soggetti responsabili, queste devono uscire alla luce del sole. Sì, quindi facciamo solo un breve commento, questa è la conferma di alcuni dati che erano già noti, erano già conosciuti. La discarica di Malagrotta attualmente è chiusa perché satura, cioè tutto il territorio lì vicino è stato completamente avvelenato. E per quanto riguarda Valle Galeria, lì c'è anche proprio la Galeria Trasporti, una società che scaricava a Malagrotta e che oggi viene a scaricare e si vede entrare nei cancelli di Roncigliano, tratta anche rifiuti pericolosi e rifiuti chimici. Quindi poi sappiamo bene, no, che questi trattamenti non sono probabilmente non sono quasi mai dei trattamenti adeguati, cioè non avvengono insomma come dovrebbero avvenire. Quindi questa è un'altra nota riguardo la zona Malagrotta Valle Galeria. Da Anna was in peace. And Paula made speech. Power to the beat. Cold glass on me. Bleed. Out of Jimmy Lee. شدي مينك يزيك ما مشيت اكواش تخيت كفرت وخرجت من دينك حرقت الضو جديد تعديت في الانتخيل برضو على الميكانيك وين الدمك خاسين دوسي عربي ضمري عربي سخون دمك همك همي عليك مش نمر خلي فني عمرك ما تلجمني خاطر على الحرية حتى الموت عمري ما تسلم واحد من الناس ناقم هاو الوقت جاش تتكلم نسبت مخبر توشتين يا ما تسرقوا فينا يا ما قبلتوا رجاوي يا ما حفظتوا علينا يا ما تبعتونا في الشامع كل السلام يا ما باطل على الهواء يا ما وقفتوها اختي على الحجاب قديش من ملتحي عدا على الاستجواب زيد حبر عمرني عشيني خلي نزيد نضحك قديش عذبتوا الرجال وتعديتوا على حقهم قديش من نخب ومراه تعدى على عرضها حاكم جيت عدي خفه للمربوط تبيع شرفها باطل ما عادش خايف منكم عاد ظلم سيات عدى الشعب فيق ونطق يا حاكم توا تفتى اصيل البلاد ديني دينا اخدم هبت راسك كل واحد مسؤول على حقه باش يطالب. E rieccoci, sfumiamo gli Armada Biserta, rieccoci qua con Ops Connecting Fights, trasmissione che parla delle lotte del lavoro e ambientali che attraversano il nostro stupendo stivale. Ricordiamoci, siamo a Radio Default, la radio locale con vocazione universale, e quindi stiamo parlando, continuiamo a parlare di rifiuti. Rifiuti con torniamo ora proprio al locale campanilistico, quindi i Castelli, e parliamo un po' della vertenza contro l'inceneritore locale. E difatti negli ultimi tempi c'è stata una notevole attività epistolare tra il capo storico, il proprietario della discarica di Roncigliano, Manlio Cerroni, che non è solo proprietario della discarica di Roncigliano, ma diciamo un po' il grande monopolista della gestione dei rifiuti nel Lazio. Manlio Cerroni ultimamente ha scritto un po' di letterine in giro, qualcuna ai sindaci dei Castelli, una ai sindaci dei Castelli Romani, in cui chiedeva appunto di far costruire l'inceneritore, di smettere di non presentarsi alla manifestazione di oggi. Un'altra l'ha mandata al governo Monti, chiedendo di inviargli i soldi necessari per la costruzione appunto dell'inceneritore. L'ultima è stata inviata al nuovo presidente della regione, Nicola Zingaretti. Prendiamo sempre l'articolo cambiamo testata e passiamo a Roma Today, la filiale castellana di Today. Inceneritore. Cerroni scrive a Zingaretti: si avviino i lavori. Il magnate dei rifiuti del Lazio, Manlio Cerroni, ha inviato una lettera al presidente Nicola Zingaretti chiedendo di avviare subito la costruzione dell'inceneritore di Roncigliano. Il magnate dei rifiuti del Lazio, Manlio Cerroni, sembra avere una passione sfrenata per scrivere e inviare lettere. Lo aveva fatto nei confronti dei giornalisti locali che contestavano la costruzione dell'inceneritore di Albano. Questa ce la siamo scordati di nominarla prima, però c'è anche questa, aggiungo io. E ne ha inviata una ai sindaci dei Castelli, ritenendo inopportuna la loro partecipazione alle manifestazioni dei cittadini no inch, per non scordare quella con cui si chiedevano al governo Monti i fondi per aprire il cantiere dell'impianto di Roncigliano. Ora a ricevere la lettera dell'avvocato Cerroni è stato il neo presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Nella missiva si chiede di far presto e calendarizzare e sostenere la chiusura del ciclo dei rifiuti del Lazio, il che vuol dire completare il termovalorizzatore di Malagrotta e costruire quello di Albano, trovando nell'attesa soluzioni alternative economicamente vantaggiose. La reazione del comitato No Inch non si è fatta attendere. Il nuovo presidente della regione Lazio e la sua giunta risponderanno pubblicamente a questa inaudita interferenza istituzionale? Si chiedono dal comitato. Ricorderà il presidente Nicola Zingaretti, che è stato recentemente sostenuto nel corso dell'ultima campagna elettorale da numerosi sindaci dei Castelli Romani che sono impegnati nella vertenza contro l'inceneritore? Il comitato NOINCH ricorda le numerose indagini in corso che riguardano la gestione del ciclo dei rifiuti nel Lazio, in cui Albano gioca un ruolo centrale nello scacchiere. La costruzione dell'inceneritore, il settimo invaso della discarica di Roncigliano, che ricordiamo è stato fatto e sta sempre lì, il decreto Clini che porta nei castelli romani i rifiuti della capitale. Domani ci sarà, cioè oggi per chi legge, per chi ascolta, ci sarà un nuovo corteo contro la costruzione dell'impianto di Roncigliano. L'appuntamento è alle ore 15 a Piazza Mazzini Albano. Un nuovo corteo per dire ancora una volta no all'inceneritore dei Castelli Romani, no al settimo invaso di Roncigliano e sì alla raccolta differenziata porta a porta associata a riduzione, riciclo e riuso dei rifiuti urbani. Beh, leggiamo da questo articolo e da, appunto, da queste simpatiche lettere inviate, ricordiamo, cioè, è evidente un nervosismo del magnate dei rifiuti laziali. Difatti vogliamo ricordare che tutta questa gestione del ciclo dei rifiuti, cioè quella del suo punto finale, cioè l'incenerimento, non è una cosa che Cerroni si paga con i suoi soldi, ma sono stanziati appunto i famosi 400 milioni di euro che vengono dai soldi pubblici, da quella piccola maggiorazione sulla bolletta che noi abbiamo, che è della bolletta dell'energia elettrica, che in teoria all'origine dovevano essere destinate per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Subito è stata posta questa simpatica clausola per cui alle energie rinnovabili è stato associato il termine e assimilate, che è appunto questa produzione di termovalorizzatori. Insomma, termovalorizzatore, che anche quello è un eufemismo, dovrebbe chiamarsi inceneritore, bruciatore, ci sono numerosi termini molto più idonei. Questi bruciatori vengono assimilati ad una pala eolica o a un pannello solare, che insomma non ci sembra, in quanto a pulizia o a effetti sulla salute, proprio la stessa cosa. D'altronde ricordiamo poi che appunto questo nervosismo e questo appunto continuo battere cassa al governo, alla regione, ai comuni, alle province, eccetera eccetera, ovviamente ci fa capire che chi fa questi impianti di certo non lo fa né per il bene comune né per una sensibilità ambientale abbastanza spiccata. È evidente che si batte cassa per avere appunto questi 400 milioni per costruire inceneritori che poi magari, come quello di Malagrotta, smettono di funzionare dopo un po', perché si rompono, sono cose che bruciano a temperature elevate, quindi si rompono, e poi per pigliarsi il contributo annuale di gestione, che sono sempre intorno ai 20 milioni di euro. Tutto questo in tempi di spending review, ce lo chiede l'Europa, eccetera eccetera, ci tagliano ospedali, servizi sociali, servizi sanitari. C'è un policlinico dei Castelli Romani che dovrebbe essere stato inaugurato non so quante mila volte dai vari rappresentanti locali, che però non viene ancora costruito, quindi capito, in sostanza ci vogliono, ci avvelenano, ci vengono i cancri o le varie malattie per chi vive intorno a discarica. Abbiamo letto prima su cosa succede a Malagrotta, qual è il livello di compatibilità ambientale di una discarica con un insediamento umano che esiste là, e nel frattempo come ci curiamo se poi ci chiudono gli ospedali e via dicendo? Ovviamente la nostra risposta è sempre quella di non abbiamo bisogno nemmeno di curarci da queste robe, perché queste robe non le vogliamo. Infine si può fare anche un commento, salutiamo il Papa argentino che è appena arrivato in studio, buonasera Santità, solo grandi ospiti a Radio Default, pure su questo ricordiamo poi che insomma questo grande invito alla politica castellana casca comunque pure abbastanza nel vuoto, perché la politica castellana e non solo, ma anche regionale, anche quella e soprattutto legata al Partito Democratico, non mi sembra che abbia mai fatto tutti questi grandi passi per aiutare la vertenza contro l'inceneritore. Il settimo invaso è stato aperto tranquillamente, malgrado i cosiddetti buoni rapporti intercorrenti tra i cittadini e le cittadine, le compagne e i compagni che lottano contro la discarica, e il comune locale di Albano Laziale. Ricordiamo il signor Manlio Cerroni, che era in ottimi rapporti con l'ormai compianto Mario Di Carlo, assessore regionale, che in diretta televisiva si lasciò scappare qualche parola di troppo, tra cui il fatto che lui sarebbe stato l'erede di Manlio Cerroni, che con Manlio Cerroni ci andava a mangiare la coda alla Vascinara e tante belle cose, un rapporto insomma molto stretto. Ricordiamoci che chi ha avviato tutto l'iter della costruzione di questo mostro sono stati i sindaci dei Castelli Romani, che nell'ormai lontano 2007 scrissero una lettera ai sindaci del bacino, quindi Rocca di Papa, Albano, Genzano, Ariccia e via dicendo. Scrissero una lettera chiedendo la costruzione di un inceneritore per risolvere la questione del ciclo, il famoso ciclo dei rifiuti. E poi nel frattempo hanno fatto tutti i passi avanti, i passi indietro, i passi a destra, i passi a sinistra, ma di fatto questa mano grossa sulla vertenza non c'è, perché già potrebbero fare una cosa molto semplice: far partire la raccolta differenziata, cosa che è partita soltanto, è avviata soltanto nel comune d'Ariccia, il resto è stata tutta propaganda. E ricordiamoci appunto che poi chi ha fatto questo inceneritore è stato il signor Piero Marrazzo, che ricordiamo essere del Partito Democratico e non di qualche altra strana formazione politica destrorsa. Ricordiamo che noi, come compagni che hanno militato, che hanno lottato, che lottano contro l'inceneritore, siamo andati anche a trovare il signor Nicola Zingaretti, l'attuale presidente della regione, che all'epoca era presidente della provincia, che diceva, mentre Marrazzo diceva no, non stiamo costruendo inceneritori, mettiamo i soldi, lui ce lo disse chiaramente: a me, se mi serve da fare 5 inceneritori, ce ne costruisco 5. Quindi questa grande mano, questa grande opposizione della politica al progetto, per ora è rimasta una delle belle dichiarazioni di principio, poco conseguenziali. Cioè, ogni mano ovviamente è sempre ben accetta, speriamo che ovviamente in futuro la cosa cambi, speriamo che i sindaci comincino ad esempio appunto a far partire questa raccolta differenziata, che ricordiamoci se è abbinata al riciclo, alla riduzione e al riuso, significa sostanzialmente rendere inutile questo impianto, questo ecomostro. Questo è il grosso che possono fare. Il resto vedremo. Noi crediamo comunque che la grande mobilitazione popolare, che attualmente ancora non c'è ma che servirebbe, è l'unico modo per impedire questo progetto. Dove i popoli si muovono, poi la politica deve andare appresso. Prima leggevamo poi del nostro caro ministro Clini, che diceva che chi si oppone a questi progetti di sversamenti di rifiuti da Roma alle zone limitrofe è contro la legge ed è oggettivamente solidale con tutti quelli che negli ultimi 40 anni hanno impedito che a Roma si applicassero leggi nazionali. Ricordiamo innanzitutto che l'opposizione è un qualcosa che è sancito in quella che loro stessi chiamano la più bella costituzione del mondo, che è il diritto ad esprimere il proprio pensiero e le proprie opinioni. Ricordiamo anche che chi ha gestito la Monnezza per 40 anni sono gli stessi che continuano a gestire oggi la Monnezza, sia i privati sia i pubblici, perché ricordiamoci che il signor Zingaretti è in politica da oltre 10 anni, il signor Piero Marrazzo è stato in politica per anche lui 5-6 anni, ma il Partito Democratico è una cosa che esiste dal 2007, ma che di fatto non è che nasce esclusivamente nel 2007 da una nuova classe politica, erano tutti politici, e qua salutiamo il nostro ascoltatore Fabietto Di Albano, che è ancora in cuore le sorti del PD, ricordiamo che derivano da il famoso Partito Democratico della Sinistra e la Margherita, insomma tutta gente che ha governato alternativamente col PDL e via dicendo. E quindi chi ha gestito la Monnezza per 40 anni è colui che continua a gestirla, è colui che ha fatto questo scempio attuale, ed è coloro... E sono coloro che evidentemente hanno permesso che non si applicassero delle politiche magari meno profittevoli per alcuni, ma più profittevoli per la cittadinanza. E ora andiamo a uno stacchetto musicale, ci riposiamo i gargarozzi e lanciamo anche una per la serata di stasera, ve ne parliamo dopo. Sentitevi la pasta all'ova e mangiatevi la pasta all'ova. E valeriana, fino a che carota a maggio la fava romana, tutta prima scelta vegetariana, sto in confidenza con la fia dell'ortolana. Domani voglio fame e po' di pasta all'ova. Domani voglio mangia un po' di pasta all'ova. Domani voglio fame e po' di pasta all'ova. E a casa mia è sempre festa, che ci sia pasta, che ci sia minestra. Mi madre a falla è una maestra, quando scodella nessuno protesta. E casareccia è genuina, niente GM nella mia cucina. Si mangia gnocchi o fettuccina, per mattarello ha fatto la sfoglia fina. Con mamma e zia e nonna in combination, alli fornelli ci fanno una session. Soffriggi al dritto, soffriggi al rovescio, che quando è ora qua vanno depression. Hai da sentir poi ho quanto è squisito, è pronto l'abbacchio a scottadito. Con le patate al forno bello e servito, se non ce l'hai fa venire l'appetito. Con la mentuccia la trippa romana, mettici il pecorino e no la grana. Pasta e patate, pasta e lenticchia, peperoncino cupì un'antichia. Domani voglio farmi un po' di pasta all'ova. Solo grandi magnate sul Radio De Fulto. Domani voglio mangiare un po' di pasta all'ova. Domani voglio farmi un po' di pasta all'ova. Domani voglio mangiare un po' di pasta all'ova. Io sono pasta bianco, appoggio il vino bianco. Poi c'è rima più non posso con un calice di rosso. Non mi siede a tavola, se non c'ho nero tavola. Alla vede come canti, si testuri un po' eleganti. Dai e pure te, portami lo chardonnay. Son venuto fino a qua, per spararmi sto girà. A vedi come sto, quando vado col cirò. Sto qui già da un po', dai e sta sto pilò. E mosso io de mano, vai col Montepulciano. Volteggio come un UFO, quando c'ho il greco de tufo. Soffravi un figurino, se scorre il morellino. Sono candidato sindaco de Montalcino. Meno internet, più cabernet. Mettici in amaro un grappino infernet. Special select, live and direct. Natti vale rasta blanco, baracca respect. Domani voglio farmi un po' di pasta all'ova. Domani voglio mangiare un po' di pasta all'ova. Quindi sempre su Radio Default, sempre Ops Connecting Fight, le lotte ambientali e sul lavoro e di resistenza che attraversano lo stivale. Pasta all'ova, abbiamo appena mandato Pasta all'ova dei Baracca Sound, e proprio per lanciare una serata che ci sarà stasera al Arcinodromo, al laboratorio occupato autogestito Agrobax, in via della Vasca Navale in zona San Paolo, a Ponte Marconi. Stasera infatti ci sarà Reggae contro l'inquinamento, una serata in battere e levare a sostegno delle spese legali dei processi No Inch. Madde Che Sound e Radio Torre sono felici di invitarvi a una serata imperdibile di cultura e musica in battere e levare per dire no ad inceneritori e discariche. Il ricavato andrà a sostenere le spese legali del collettivo del No Inch, che da anni propone nuove alternative: raccolta differenziata, riduzione, riuso e riciclo. Dalle 22 si alterneranno sul palco dell'Ello a Acrobax, dando vita a uno show mai visto nella capitale, Cisco X Working Vibes, in showcase che riproporrà canzoni prodotte con la sua ex band, conosciuta in tutto lo stivale e con le quali è cresciuta un'intera generazione di reggomani. E ci arriva un... interrompiamo un attimo la lettura della presentazione della serata perché ci chiedono oggi dove arriva il corteo. Allora, il corteo parte alle 3 da Piazza Mazzini ad Albano Laziale ed arriva a Piazza della Corte ad Ariccia, che è praticamente la piazza principale, quella dove c'è Palazzo Chigi, il comune, insomma, la piazza dove si va a smaltire la sbornia dopo essere stati alle fraschette in genere, quindi quella col fontanone del Bernini, quindi corteo extracomunale proprio. Quindi ricordiamo, il corteo parte da Piazza Mazzini e arriva nella piazza centrale di Ariccia. Torniamo per la comunicazione di servizio, torniamo alla lettura alla presentazione della serata di stasera, che ricordiamo all'Ello a Acrobax, a Via della Vasca Navale, a Roma. E appunto, dopo Cisco ed Ex Working Vibes, ci sono Culla e Cloaca, Auta Baracca Sound, Sound of the People. Poi vi saranno Rasta Blanco, Auta Radici nel Cemento, storica band capitolina, che tutte e tutti conosciamo e che manda anche questa radio. I Maddeke Sound, l'originale stile da fraschetta. Jimmy, Auta in a Cantina, dei Young Veteran. Mattune from Salento e Big Trip degli Tsunami Massive. A supportare i canterini ci saranno Natty Roots e dei Sound United. Nella sala B invece ci saranno Sensi 3, Grow Roots e Toweli, Ottafi upon Babylon. Prima e dopo lo show, Dancehall con Radio Torre e Maddeke Sound, che uniranno il loro sound system per far tremare il pavimento del cinodromo a suon di bassi possenti e farvi ballare fino a mattina. Ingresso 5 euro che ti torneranno tutti in salute. Quindi ricordiamo, altre indicazioni per la serata, appunto la serata sarà all'Ello a Acrobax in Via della Vasca Navale 6 a Roma, zona appunto Ponte Marconi San Paolo. Il sito dell'Acrobax è www.acrobax.org e anche la pagina Facebook è Acrobax. E quindi se ci tieni alla salute, vieni al corteo e dopo vai alla serata con i 5 euro che ti torneranno tutti in salute. E per ritornare appunto alla grandi telefonate a Radio Default, per ritornare appunto al discorso della monnezza locale, cambiamo testata e leggiamo un altro articolo di Castelli Notizie, che riporta un comunicato di OPS, Occupazioni Precari Studenti, il ben noto gruppo dei Castelli Romani che lotta contro gli sprechi, contro le devastazioni ambientali e che sostiene le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori. L'articolo in questione dice, titola 750 tonnellate di mondezza e bugie, i no-inch si mobilitano ancora. Secondo il decreto Clini, i rifiuti da Roma dovrebbero solo essere trattati a Roncigliano e riportati via. In 5 giorni di presidio permanente, l'unico camion che esce, non vuoto, è diretto a San Vittore, dove c'è un inceneritore gestito dalla ditta EAL, posseduta al 100% da CSPA. I compattatori scaricano quotidianamente dalle 6 alle 18 circa, ininterrottamente. Viene allora da pensare che ad Albano, Roncigliano e negli altri siti del Lazio il trattamento meccanico biologico TMB non avviene secondo le procedure adeguate. Si dovrebbero separare le frazioni di rifiuti, invece si ritrovaglia il tutto e il tutto finisce in una buca di qualche invaso delle discariche. Per questo motivo poco tempo fa l'UE ha deferito l'Italia per il trattamento inadeguato dei rifiuti. E ricordiamoci sempre, aggiungo io, che ci stanno il governo in carica, ma anche quelli precedenti, cioè, stanno facendo passare la rimozione dei diritti sul lavoro o la costruzione appunto di discariche e di inceneritori, la privatizzazione dell'acqua, dicendo sempre che ce lo chiede l'Europa. Evidentemente l'Europa non ci sta chiedendo questo. E non vogliamo sapere cosa accade dentro Rocca Cencia. Noi vogliamo sapere cosa accade dentro Rocca Cencia. Non è più tollerabile che per continuare a far fare soldi a Cerroni, alla parentopoli di Ama e Acea, vengano avvelenati interi territori e anche i lavoratori costretti a svolgere il proprio lavoro in condizioni igieniche vergognose. Basta discariche di inceneritori, fuori profitti dai nostri territori. Sabato ad aprile, ore 15, concentramento a Piazza Mazzini ad Albano. La nota di OPS. Dopo l'ultima sentenza del TAR che rigetta il ricorso del comune di Albano, i lavori per l'inceneritore potrebbero partire da un giorno all'altro. La legge ha dato il via libera per la costruzione di un mostro da 400 milioni di euro che accoglierà i rifiuti di Roma e provincia. L'ennesima colata di cemento con cui Ama, Acea e Cerroni provano a tappare l'enorme buco nero del problema mai risolto dei rifiuti del Lazio. Non si capisce ancora dove prenderanno i soldi necessari alla costruzione dell'impianto. Quel che è certo è che saranno fondi pubblici, tolti alla sanità, alla scuola e al lavoro. Ancora una volta la legge non difende la salute dei cittadini. L'inceneritore arriverà in un territorio, quello di Roncigliano, che sta già vivendo in queste settimane un'escalation dello sversamento dei rifiuti. Il decreto Clini, infatti, ha reso possibile scaricare a Roncigliano parte dell'immondizia prodotta nel comune di Roma. Sono rifiuti non trattati o trattati in modo inadeguato, senza alcun interesse per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini che abitano sul territorio della discarica. Sta a dimostrarlo il recente deferimento dell'Italia da parte dell'Unione Europea per la questione dello smaltimento e del trattamento dei rifiuti. Dopo oltre 6 anni di mobilitazioni, le amministrazioni locali ancora non hanno costruito su tutto il bacino dei Castelli Romani una gestione pubblica e partecipata di raccolta differenziata. Anzi, continuano in un valzer tra responsabilità e ricorsi legali, forse utili per mascherarsi da no inceneritore. L'abbiamo visto in particolare con l'amministrazione del comune di Albano e il suo atteggiamento che spesso ha creato vane e inutili aspettative, ma che poi in realtà ha dimostrato quanto sia forte il ricatto di Cerroni. La via giuridica dei ricorsi e della battaglia legale non si è dimostrata risolutiva per fermare i lavori e l'ampliamento della discarica. Ariano e a Colfelice, l'abbiamo letto prima, lo scempio e la devastazione dell'ambiente è stato contrastato con la partecipazione popolare diretta e con presidi permanenti davanti agli ingressi dei terreni, dove sarebbero dovute sorgere le discariche. Anche i Castelli, l'unica alternativa alla brutale gestione dei rifiuti messa in atto a Roma e nel Lazio, è la mobilitazione popolare. È necessario costruire un'opposizione reale al progetto dell'inceneritore e proporre una vera alternativa al problema dei rifiuti sul nostro territorio, e questo si può fare solo mettendosi in gioco in prima persona. Il corteo di sabato è l'ennesima giornata di mobilitazione sotto i palazzi del potere e per le strade del comune di Albano, maggior responsabile della gestione della discarica, ma presto bisogna tornare davanti ai cancelli di Roncigliano e dimostrare che ai Castelli non ci pieghiamo in nessun modo alla devastazione e al saccheggio dei nostri territori. Blocchiamo il cantiere dell'inceneritore adesso. Occupazione, precari studenti. E quindi appunto un'ennesima dichiarazione questa di occupazioni, precari studenti, pone in atto anche di una cosa di cui tutti gli altri non parlano, cioè una gestione partecipata e diretta dei cittadini alla questione dei rifiuti. Qualcuno storcerà il naso e dirà: ma come? Ora anche la Monnezza è un bene comune? Secondo noi sì, una gestione di un settore così chiave per la vita di tutti i giorni non può continuare a essere gestita in maniera opaca da ditte private, che abbiamo visto fanno anche profitti ben consistenti su questa gestione e creando anche quelle crisi su cui poi appunto si specula. E appunto il ritorno, quello che deve essere messo in campo deve essere un momento anche di discussione e di confronto su come si può gestire in maniera partecipata e trasparente, con il cosiddetto controllo popolare dal basso, la questione dei rifiuti. E ora un altro stacchetto musicale e poi torniamo con altre lotte sempre dallo stivale. Che divampa, sangue che bolle, flusso che scorre, tempo che non passa mai, tempo scorre. Siamo virgole di un infinito discorso, trascenderebili sullo stesso percorso. Disadattati che non trovano posto, siamo pioggia patente che cade a Ferragosto. Siamo legge costituita e poi sabotata. Siamo disoccupato che servo dello Stato. Questo è niente, solo una storia come tante. Sogno una liberazione denazificante, perché piove, governo ladro e vai distrutto. Non abbiamo niente ma ci prenderemo tutto, perché tutto in fondo è quello che ci spetta. Oggi tutti in piazza pronti all'azione diretta, ma che rassegnazione, niente affatto. La rivoluzione ora cammina sull'asfalto. Osservo i passi scalpitanti di passanti stanchi, affollano le strade tra vetrine luccicanti, pochi assenti di viandanti avvolti da diamanti. Trante pila folli succedono agli istanti, salli su merce scontate attirano ansimanti, essere agli antipodi di uomini pensanti. Wonderful, very cool, si va avanti a better room. Ahimè quei bei tempi oggi come son distanti. Siamo tutto e se tutto è stato detto e fatto, siamo l'occupazione che resiste ad ogni strato, come il sole che picchia di brutto. Non saremo niente ma sapremo essere tutto, perché tutto in fondo è quello che ci spetta. Oggi tutti in piazza pronti all'azione diretta, ma che rassegnazione, niente affatto. La rivoluzione ora cammina sull'asfalto. Allora, torniamo in linea su Ops Connecting Fights, cambiamo voce ma sempre di lotte, di movimenti territoriali, continuiamo a parlare. Ci arriva una bella notizia adesso proprio da Roma, è iniziato quello che i movimenti per la casa, i movimenti per il diritto all'abitare hanno definito qualche giorno fa il nuovo Tsunami Tour, scimmiottando un po' Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle. Una bella notizia, cioè che appena pochi minuti fa, lo leggiamo dalla pagina Facebook dello sportello metropolitano di Centocelle, pochi minuti fa è stato occupato uno stabile da parte di 200 persone a via Tiburtina. Quindi leggiamo invece da Twitter, dove dice: inizia lo tsunami, occupato stabile abbandonato sulla Tiburtina ad altezza San Basilio. In arrivo, dice lo stesso messaggio su Twitter, le prime forze dell'ordine. Che cos'è questo Tsunami Tour? Quindi che cosa chiedono i movimenti per il diritto all'abitare della città di Roma? Sicuramente appunto rispondere, e chiedono risposta all'amministrazione comunale per quanto riguarda una delle emergenze più gravi che attraversa appunto Roma, e sicuramente non solo la città di Roma. Parliamo dell'emergenza abitativa, appunto fatta di affitti alle stelle, di sfratti quotidiani e di persone dunque che non riescono a permettersi quello che dovrebbe essere un diritto sacrosanto di chiunque. I movimenti all'abitare quindi a Roma rispondono, hanno da sempre risposto appunto dal basso a questa necessità, riprendendosi direttamente ciò che appunto non viene dato dalla politica, dalle istituzioni, che sono molto più attente appunto al mercato, alle speculazioni, a favorire il costruttore di turno, piuttosto che appunto a favorire le richieste, a soddisfare la richiesta di casa, di un tetto appunto da parte di tutti e tutte. Vediamo un attimo come è iniziato lo Tsunami Tour e qual è l'obiettivo di questo Tsunami Tour, a parte appunto quello della giornata di oggi. Ieri ci sono state una giornata importante di mobilitazione per lanciare queste occupazioni, questa giornata di oggi, ma soprattutto il corteo che si terrà il 9 aprile davanti alla Regione Lazio, verso la Regione Lazio, quindi nella zona di San Paolo. Ieri innanzitutto è stato occupato un cantiere appartenente a Caltagirone, un cantiere terminato ormai da tempo. No? C'è bassissimo. Un cantiere iniziato ormai da tempo in quel di... Sì, ci devi parlare noi, ci devi parlare tu. Okay. Ecco. Ma... Un cantiere iniziato già da tempo. Abbiamo dei problemi tecnici, se qualcuno ci sta ascoltando ci dicesse se si sente bene, altrimenti ricomincio da capo. Parla. Sì, sì. Allora, quindi appunto l'occupazione di questo cantiere, dice il comunicato dei movimenti per il diritto. Ok, si sente, Francesco dice che si sente, quindi continuiamo. Si sente bene, Francesco? Diccelo un attimo. Sì, sei te che devi parlare attaccato. Ok. Allora, quindi dicevamo dell'occupazione di ieri a, dell'occupazione di ieri alla, al cantiere, quindi parlavamo appunto dell'inizio di questo Tsunami Tour, iniziato ieri con l'occupazione di un cantiere appartenente alla ditta di Caltagirone e appunto il comunicato dei movimenti per il diritto all'abitare, lanciando questa iniziativa e questa mobilitazione, ricorda come l'invenduto privato a Roma rispetto alle case ammonti a circa 200.000 alloggi chiede appunto, rivendica che la città di Roma non sia più ostaggio dei costruttori e di amministrazione impegnata a sostenere gli interessi speculativi di questi, come sta accadendo con le delibere urbanistiche in discussione in Consiglio Comunale. L'amministrazione a guida appunto di Alemanno si avvia alla fine e come sempre, diciamo, prima della campagna elettorale tutti i sindaci di Roma hanno votato, i consigli comunali romani hanno votato le peggio schifezze relativamente appunto alle cubature, alle metrature e alla, diciamo, gettate di cemento, e questo sta facendo anche Alemanno in questo momento. Continua il comunicato dicendo: oggi abbiamo preso le misure degli alloggi in costruzione, degli alloggi appena ultimati. Se non arriveranno soluzioni concrete per chi vive la precarietà alloggiativa, torneremo a prenderli. Mentre sempre ieri, una settimana fa, era già stato occupato proprio dai movimenti per il diritto alla casa, o c'è stato anzi un presidio davanti agli uffici della ragioneria comunale nella zona Ostiense, con un conseguente blocco stradale davanti appunto a questo dipartimento promozione dei servizi sociali e della salute. Il motivo di questo presidio, di questa protesta con cui i movimenti per la casa hanno lanciato appunto lo Tsunami Tour, era il mancato rispetto del protocollo d'intesa firmato dal comune per la costruzione e per l'assegnazione di 35 alloggi. Ricorda appunto il sito Abitare la Crisi che la questione dell'emergenza alloggiativa a Roma riguarda 5.000 famiglie raccolte nei centri di accoglienza del Comune di Roma, molti dei quali sono a rischio di chiusura per mancanza di fondi. Dopodiché dal presidio ricordo del 25 marzo, davanti appunto al Dipartimento di Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, le 400 persone e oltre sono partite in corteo verso il Campidoglio. Allora, anche ieri poi, a parte l'occupazione di questo cantiere di Caltagirone, ricordiamo noto costruttore implicato e arrestato da poco, comunque mi dicono che non è lui ad essere arrestato, ma quell'altro, comunque appunto noto costruttore romano, amico, diciamo, con amicizie politiche trasversali, che ha rovinato e continua a speculare sull'agro pontino e su non solo sull'agro pontino, sull'agro romano e non solo, appunto, aumentando la cubatura, non per rispondere al bisogno reale delle persone, al bisogno reale di chi chiede una casa, ma soltanto a fini speculativi. Parlavo appunto della giornata del 4, l'altro ieri appunto ci sono state due mobilitazioni, una a Torpignattara, sempre per rivendicare il diritto appunto alla casa e ad una vita dignitosa. A Piazza della Marianella appunto c'è stato questo corteo che ha attraversato Torpignattara e il Pigneto, passando davanti ad alcune vertenze abitative storiche come quella di via Antonio Tempesta e quello studentato di Point Break. appunto, quindi vertenza abitativa e diciamo questione del diritto all'abitare, che poi interessa anche i tanti studenti che vivono a Roma, proprio perché sicuramente hanno, soprattutto i giovani sono quelli che hanno più difficoltà appunto ad allontanarsi dalle rispettive famiglie per gli affitti altissimi, per l'impossibilità quindi di affacciarsi sul mercato delle case. Quindi gli studenti, prima con Point Break alcuni anni fa e recentemente con Mushroom, che è stato poi sgombrato, appunto hanno risposto occupando degli stabili abbandonati e costruendo dei veri e propri studentati autogestiti. Allora mandiamo adesso una traccia e poi continuiamo a parlare appunto delle vertenze del Movimento per il Diritto alla Casa in quel di Roma. Gorilla nella nebbia di sta giungla di cemento, Caterpillar dice Willa Willa senza Kento. Non canto per la gloria né per la vittoria, siamo sconfitti ma non vittime finché c'è la parola. Microphone filosofo, sì. Vinili dentro al cofano, più pensa la coscienza e più che strofe bobe molto. La posse butta il fuoco quando scrive, non ha la penna di Montale ma canta il male di vivere. E voglio meno business, più palle per i rappers, meno AKA, più AK-47. Rivoluzione già dal soundcheck, sì. Kento fatto me venne Paz, Murder Every Track, Simone, Bruno, Nello, sì. Roberto, sì. Casile, incula al camerata come il 25 aprile, Calafro Sound, sì. RC Massive, spingi sti bassi oltre quei 100 passi. Mi cianfi di glory, mina cianfi di preda, you can't test this at a fire red. Non al denaro, no. Nemmeno al cielo, no. Calafro Sound, power boom, crash the show. Mi cianfi di glory, mina cianfi di preda, you can't test this at a fire red. Non al denaro, no. Nemmeno al cielo, no. Calafro Sound, power boom, rush the show. Yeah. Sono un collezionista di parole, di merce che non ha valore. Un idealista con le scarpe sull'asfalto e con la mente altrove. L'ispirazione non ha come, non ha quando. Al punto che se scrivo su comando resta un foglio bianco. La mia ambizione è umile ma non si arresta se cavalca la cresta di ogni onda in un mare in tempesta. Arte inutile, l'indispensabile che si fa vana. Ricerca di una trama, vita quotidiana. E non la sporco di danare, forse sbaglio. La forma del mio tempo è nella somma di ogni suo ritaglio. E la filosofia più misera e che gode di ciò di cui si priva con un'indole più schiva di prima. L'idea si manifesta e resta viva fino a dove arriva e cambia la mia prospettiva. E non c'è nulla di automatico nel pratico, tutto resta uguale, tutto è statico. Teorie del divenire come Eraclito, agilità del bradipo, arrendersi ad un passo dal traguardo è un vizio sadico. E se corro cerco i freni, la libertà di schemi, le mille implicazioni con i massimi sistemi. Nell'ultimo, nel primo, se mi esprimo col linguaggio clandestino, salvo dal ricatto del pane e del vino. In questo mondo meschino, se vivo ancora per quei sogni dentro l'intestino, sin da bambino. Mi cianfi di glory, mina cianfi di preda, you can't test this at a fire red. Non al denaro, no. Nemmeno al cielo, no. Calafro Sound, power boom, crash the show. Mi cianfi di glory, mina cianfi di preda, you can't test this at a fire red. Non al denaro, no. Nemmeno al cielo, no. Calafro Sound, power boom, crash the show. Dai, Francesco, 26 che non mi rattristo, sei l'unico master che conosco, la fatto passi e sta sul mio vecchio disco. Ma se mi autorecensisco, il mio passato è in bianco e nero, da disturbare il sonno aprisco. Preferisco un salvagente apparente, mi basta qualche strofa scritta dentro un call center. Evidentemente end of time come Q-tip, pago la tua strofa per non sentirla su di un'altra EP. No beat, il mio futuro è già presente, se ti supero solo un mezzo e non mi serve la patente. No perdente, se vuoi parliamo chiaro, recensisci il tuo amico caro e non mi tange finché tengo spento il faro. Danno lezioni sulla metrica ma senza passare dall'italiano. Se cado mi rialzo come in Dempsey, mentre canto ai frati miei più forte I still the same. Mi cianfi di glory, mina cianfi di preda, you can't test this at a fire red. Non al denaro, no. Nemmeno al cielo, no. Calafro Sound, power boom, crash the show. Mi cianfi di glory, mina cianfi di preda, you can't test this at a fire red. Non al denaro, no. Nemmeno al cielo, no. Calafro Sound, power boom, crash the show. Un esempio di costanza, un uomo solo in una stanza, ipnotizzato da una punta di diamante, una circonferenza. Le mie visioni sono il suono delle casse, ogni mio pezzo è un esorcismo per le masse. Il foglio assorbe i segmenti ed il mio fluido resta puro, mentre scrivo in trance le rime per segnali dal futuro. E neanche Nicolas può tenerle in gabbia se portano la rabbia di un approccio da street vandal, non cambia. è uno scenario ipocrita. È il metro di giudizio del compenso non a metrica, che seppellisce e genera sempre lo stesso clone, che cerca credibility in un giorno di prigione. Calafro, coscienti fino al midollo, liricisti liberi senza catene al collo, ed ogni verso trasforma la lingua in lamina. Cantiamo non per pane, ma per sfamare l'anima. Allora, quindi riprendiamo appunto a parlare di questo Tsunami Tour, che come detto è iniziato oggi appunto con l'occupazione di uno stabile abbandonato sulla Tiburtina. Come raccontavo prima, alcuni due giorni fa ci sono state una serie di iniziative simboliche per lanciare appunto questa mobilitazione in vista del corteo del 9 aprile, di cui adesso parlerò. Altra interessante iniziativa è stata quella fatta in quel della Romanina, quindi una zona periferica di Roma, dove cittadini, comitati, il collettivo di Cinecittà Bene Comune, Action, hanno occupato simbolicamente i terreni di un costruttore di scarpellini, appunto, terreni appunto che secondo le delibere urbanistiche che sono in discussione adesso in Campidoglio dovrebbero vedere appunto a breve il raddoppio delle cubature di cemento, quindi un'ennesima speculazione edilizia permessa, che Alemanno appunto vorrebbe permettere per dare un ultimo regalo ai costruttori, e quindi per cercare anche da parte loro un appoggio alle prossime, ormai imminenti, elezioni romane. E che cosa hanno fatto e che cosa consistita questa occupazione simbolica? Semplicemente nel fare dei giardini e degli orti in quel terreno. Quindi i manifestanti, gli attivisti avevano vanghe e picconi in mano e hanno piantato piante, verdure, ortaggi vari, appunto, costruendo i giardini, dicono appunto nel comunicato, nell'articolo poi che leggiamo su Dinamo Press, i giardini della libertà e della partecipazione. Dicono appunto: non è possibile continuare a consumare suolo, bisogna recuperare il costruito, che già è troppo, dal centro alla periferia. Terreni come questo, piuttosto che destinarli al cemento, per giunta privato, sarebbe più utile potessero essere destinati a orti urbani, che possono svolgere una funzione importante di educazione e aggregazione nei territori, e ai tanti giovani agricoltori e alle cooperative agricole in cerca di terreni. Quindi una richiesta chiara da parte dei movimenti appunto che hanno lanciato questa iniziativa, sia di smetterla appunto di consumare suolo e di utilizzare le tante case sfitte presenti a Roma e in tutto il territorio nazionale, magari lanciando anche un piano di rivalutazione dell'urbanistica, quindi riqualificazione urbanistica, che servirebbe sicuramente a questo paese. E poi appunto lanciando l'idea di costruire, appunto di attivare questa serie di giardini e di orti urbani, per rispondere anche quindi alla crisi, magari favorendo tante piccole cooperative agricole e rispondendo così alla disoccupazione giovanile. Parlavo prima appunto del corteo, che è poi l'obiettivo dello Tsunami Tour. È un corteo che inizierà martedì 9 aprile alla fermata metro di San Paolo alle ore 14:30, quindi viale Giustiniano Imperatore, e che si recherà verso appunto la sede della giunta regionale del Lazio, sede che come sappiamo è oggi guidata, regione che come sappiamo è oggi guidata da Zingaretti, quindi dal centro-sinistra, e i movimenti appunto per il diritto a libitare chiedono proprio al nuovo presidente come si vuole comportare e come vuole agire rispetto a questa enorme emergenza che preoccupa Roma, ma tutta la regione in qualche modo. Quindi, dice il comunicato alla fine, il cambio della guardia della regione ci induce ad interrogare su tutto questo il nuovo governatore, e lo facciamo nell'unico modo possibile, appunto con un corteo. Il comunicato è quello dell'USB, dell'Asia USB, che ricorda come in Italia l'11% della popolazione residente vive in emergenza abitativa, e se andiamo a vedere chi ha problemi con i pagamenti per l'abitazione arriviamo al 14%, quindi un'emergenza che si sviluppa su scala nazionale, un'emergenza sicuramente preoccupante che nel caso della città di Roma, tra sfratti esecutivi, dice appunto il comunicato, minacce di sgombero e pignoramenti, si arriva a più di 10.000 nuclei familiari coinvolti, senza, ripetiamo e ricordiamo, nessuna risposta da parte della politica, se non quella di favorire ancora una volta le speculazioni, quindi i mercati, come sta facendo appunto Alemanno, affittando nuove costruzioni, nuove, diciamo, modificando appunto i piani regolatori per garantire soltanto gli interessi di pochi e i profitti di pochi, e non sicuramente appunto il diritto, il sacrosanto diritto di tutti ad avere un tetto sulla propria testa. Mandiamo un'altra traccia e ci risentiamo tra poco. Like fire, who's that girl? Cool, Maya, my A, coming back with power. Allora, leggiamo con voi alcune notizie appena arrivate, appena caricate su internet, rispetto appunto a quello di cui parlavamo prima, quindi a questo Tsunami Tour appunto a questa mobilitazione che hanno lanciato tutti i movimenti per il diritto all'abitare della città di Roma. Apprendiamo da Dinamo Press, ma anche da Twitter, che sono a questo punto 9 le occupazioni in tutta Roma. A Ponte di Nona occupate le case sfitte di Caltagirone, a Garbatella l'ex ASL di Messa. Due occupazioni sulla Tiburtina, una delle quali quella di cui parlavamo prima, sono appunto due penso capannoni o comunque due stabili sfitti dell'ATAC. Un'altra occupazione a San Basilio, occupato uno stabile di proprietà del Fondo Immobiliare della Banca Popolare di Milano. All'undicesimo municipio poi occupati i locali che prima erano dell'assessorato alla casa della Regione Lazio e che ora appunto sono stati messi sul mercato e quindi in vendita dalla Regione stessa, addirittura con un fondo immobiliare con sede a Lussemburgo. Un'altra occupazione addirittura sull'Appia, uno stabile appartenente addirittura ai Cavalieri dell'Ordine di Malta. Quindi, come dice... Un grande Medioevo, un grande ritorno al Medioevo per una grande città. Quindi colpita, come dice il comunicato, la rendita, i poteri forti e soprattutto siamo felicissimi che sono stati colpiti anche i Cavalieri dell'Ordine di Malta. Su Dinamo Press potete trovare le foto di tutte queste occupazioni, vediamo tantissime persone appunto che occupano gli stabili, giovani, famiglie, vecchi, bambini, tutti insieme appunto ad occupare queste case, a rivendicare appunto il sacrosanto diritto all'abitare, soprattutto che ciò che riguarda la casa deve, e questo bisogno deve uscire necessariamente da qualsiasi logica di mercato e qualsiasi logica legata al profitto dell'imprenditore di turno. Vediamo anche appunto anche il comunicato che vedo adesso dei movimenti per il diritto all'abitare, coordinamento cittadino in lotta per la casa, i blocchi precari metropolitani, Action e il comitato Obiettivo Casa. Ore 13 la sveglia di nuovo suonata, se stai vivendo con la paura che l'ufficiale giudiziario bussi alla porta di casa per eseguire lo sfratto o il pignoramento, se negli ultimi anni o mesi hanno visto l'affitto della tua abitazione aumentare a dismisura fino a raddoppiare persino a triplicare, se non ce la fai più a pagare mutui e affitti improponibili, se sei disoccupato o disoccupata, precario o precaria, se arrivare alla fine del mese comunque è diventata una missione sempre più impossibile, se stai pagando il prezzo di una crisi che certamente non hai contribuito a generare e la tua vita sta diventando un incubo, non ci dormire sopra, vieni con noi, riprenditi ciò che ti spetta, occupa la città. Pochi minuti fa nella città sono stati occupati altri 13 stabili vuoti ed abbandonati. Le luci di altri 13 palazzi, ex uffici e case invendute sono state accese per spegnere la rendita ed il profitto di pochi a danno di tutti. Per lasciare al buio chi, da anni, ha accumulato smisurate fortune rubandoci territorio e vita. Altri 13 spazi sono stati sottratti ai signori del mattone e della speculazione proprio nel momento in cui si vorrebbe riversare su Roma una nuova valanga di cemento privato, approvando, in zona Cesarini, una nuova sfilza di delibere cosiddette urbanistiche, che in realtà rappresentano l'ennesimo sacco di Roma. Del resto, le ombre nere dei re di Roma sono già pesantemente entrate in campo nella competizione elettorale che porterà ad eleggere a fine maggio un nuovo sindaco e di nuovo consiglio comunale di Roma. Giocano in tutte le squadre per disegnare, come sempre e più di sempre, a loro uso e consumo, il futuro di una città già fin troppo saccheggiata e devastata, oramai capitale del cemento, dell'austerità e del magna magna. È compito di tutti e tutte noi fermarli, far emergere nel conflitto e nell'auto-organizzazione un'altra idea di città, un'altra Roma da costruire e conquistare insieme. Siamo consapevoli che non basterà qualche taglio ai cosiddetti costi della politica, una spruzzata di trasparenza e qualche volto giovane e nuovo, che magari poi tanto nuovo non è, a cambiare veramente le cose, a spazzare via gli interessi di quei potenti che continuano a seminare precarietà e ad affamarci. Nessuno al posto nostro conquisterà i diritti che ci vengono negati, solo noi direttamente possiamo riprenderci ciò che ci spetta. Anche per questo abbiamo deciso di collegare oggi, in una grande giornata di lotta e mobilitazione, la lotta per l'abitare con quella contro le discariche, gli inceneritori e tutte le fonti di nocività che distruggono i territori e, e la salute. Con queste idee ben chiare in testa ci prepariamo a manifestare il 9 aprile con un corteo che arriverà fin sotto le finestre della Presidenza della Regione per chiedere a gran voce il blocco generalizzato degli sfratti e degli sgomberi e la realizzazione immediata di un piano straordinario contro l'emergenza abitativa. Questo è appunto il comunicato di tutti i movimenti per il diritto all'abitare, Coordinamento Cittadino di Lotta per la Casa, il BPM, Blocchi Precari Metropolitani, Action, il Comitato Obiettivo Casa, appunto, che ricorda il particolare momento in cui si trova la città di Roma. Domani ci sono le primarie del Partito Democratico, a breve ci saranno le elezioni. Sì, ci ricordano che delle primarie del Partito Democratico, soprattutto il Sor Fabietto ne parla spesso, quindi se volete avere aggiornamenti sulle vicissitudini del Partito Democratico Romano basta che vi collegate dalle 3 in poi su Radio Default tutti i giorni con la Mazza Caffè. Quindi è un periodo molto particolare, come dicevo, delle elezioni che si terranno a breve, dall'esito assolutamente incerto, e quindi appunto su cui pesa questo rischio, e appunto il rischio dell'aumento delle cubature e del cambio all'ultimo momento tramite alcune delibere del piano regolatore. Quindi i movimenti reagiscono di conseguenza e si riappropriano di ciò che appunto la speculazione vorrebbe togliere, quindi del diritto appunto alla casa e all'abitare. E, ottimo appunto rispetto a quello che dicevamo prima, di cui ci parlavano prima Emanuele e Roberta, il riferimento appunto alla giornata di oggi di lotta contro le discariche, gli inceneritori, che appunto si fa nel comunicato. Quindi ottimo appunto, perché anche questi movimenti cercano, come tutti i movimenti dovrebbero fare, nessi con vertenze e con movimenti che apparentemente sono lontani tra loro, ma che in realtà sono mosse da un unico comune denominatore, quindi la lotta contro la speculazione, la lotta contro la messa a profitto tanto dei diritti, tanto dei bisogni, come dei propri territori. Andiamo con un'altra traccia e poi vi lasciamo con le ultime notizie. London calling, speed the slang now, boy say what? One girl say what? What? London calling, speed the slang now, boy say what? One girl say what? What slam? Gala gala gala, gala gala gala gala gala gala. Shotgun get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down. Da Genzano a Londra, dai, e Fagione. You Bella per i cavalieri di Malta che difendono l'Occidente cristiano dall'invasione orientale. Fate ride. You can watch TV, you can watch the media. President Bush didn't take over. تنسى في الوطن من اجل دمك اخي ارقد بسلام ذكرت فينا ما بننساها اخي ابو يوسف فاك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمة تكون انسان اخي لحل الرسم الوجب بصدري واكتب المقامة على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي يا صاحب العرض ضرب فلسطين اتبنتك وصلت سفن حريه مغطت طيت بعودتك تكون من جسد تزوق الضغط اعداء السلامه كم من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك قصيتك تكون رساله حره فلسطينتي مصر ترجع بلادنا الحره اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمه الا بوحده الشعب الا برجوع الارض ضرب تناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أنتم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أنتم ينادي اسم عن خدر معادي يشد على الأيادي أيادي بساعد ما حب الموت ناطر بالصوت صاحب عين الصوت أناديكم أشدوا أياديكم لستم ضعف أضعف هم معاديكم بس الأرض كتف وضم بضحرة دم القدر بضحرة درجة الدموع بضحرة الشموع تتخطى الوداع هو الأبقى أناديكم أشدوا على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أنتم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أنتم أحكي في الطارية رمز السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي في طارية زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر زي في طارية أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة أحكي في طارية إحنا إلنا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد أنت فلسطيني بكل فلسطيني وأنا أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أنتم أناديكم أناديكم أناديكم أناديكم الجاي بدل عربي حطتنا بدنا اياه ثقافتنا بدنا اياه كرامتنا بدنا اياه كل شيء لنا بدنا اياه ما راح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلي مش الهن ما خصن فيه هلدونه بلتبس لبس هالقر يكفي هنش طمعانين عالقدس قدس عرفوا كيف كونوا بشر جينا نذكر مين احنا وغصب عن ابوهم هي حطتنا هيك لبسنا الكوفي لانه وطني الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الاساسي الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفي عربي مثل العربي ما في بعد مثل الشعب العربي رجوني اي امي بالدنيا اكتر مؤثري الصورة واضحة نحنا مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار الى رام الله خليني نشوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما انا هجاه بيت العرب الثاني بخص غزة الثاني بهز هزقلي ماتي حرب سجل انا شادي منصور بالحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لكن اتربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين زلمت الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلقتوني بدلني عاوصولي فلسطينية هيك لبسنا الكوفي لأننا وطني الكوفي كوفي عربي هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بدل عربي كوفية عربية كوفية عربية I spit on the pavement, it's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't a rag. The kafia ain't no scarf, it's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable beat the bandana. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity, the feelings is mutual. Allora, Ops Connecting Fights, la seconda puntata di Ops Connecting Fights su Radio Default finisce qui. Tanti gli argomenti che abbiamo affrontato, dalla lotta appunto ambientale che interessa il nostro territorio, alle lotte del movimento e le lotte per il diritto alla casa nella città di Roma, le continueremo sicuramente a seguire. Vi invitiamo a partecipare al corteo che inizierà a breve, a cui anche noi ci stiamo verso dove stiamo andando anche noi in questo momento, quindi corteo contro l'inceneritore, l'undicesimo corteo contro l'inceneritore di Albano che si tiene appunto qui ai Castelli. Stasera ricordiamo ancora l'iniziativa, importantissima iniziativa, al Centro Sociale Acrobax di Roma per le spese, per sostenere le spese legali rispetto alle denunce arrivate dopo il corteo del 14 aprile, quindi una dancehall, un reggae contro l'inquinamento, l'iniziativa si chiama, e quindi venite, spargete la voce e ballate tutta la sera naturalmente. Sabato prossimo quindi ci risentiamo sempre dalle frequenze di Radio Default, sempre con Ops Connecting Fights. Mimi